We have some explanation for that. We have some. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. That's what enough. The hell is that? Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it, we've marked it. Who's communication? Bravo Tango, Bravo Tango. Strike down the bell, hear the bell. Non vi basteranno le spade. Eh sì, buonasera, questa è Lezioni Universali di Esistenza, dove per l'appunto diamo lezioni di esistenza a chi che sia. Oddio, uso il plurale, ma in realtà è piuttosto improprio, perché a dare lezioni, per la verità, è lo stellare maestro Centottani, qui accanto a me, come sempre. Maestro, buonasera. Plurale maestates. Maestatis. Pensiamoci, estates. Un po' freudiano, maestatis. Mi sa che sai, sì, sì, sì. Ma questa sera scintillerai assieme a qualcun altro, come già successo in passato, perché non sarai il solo a darci profezie e verità, perché torna con noi, come annunciato, come chiamato, a chiamata risponde il maestro di nuovo, Ricky Gianco. Maestro Ricky Gianco, buonasera, che onore, maestro. Buonasera. Buonasera, bentornato. Buonasera, buonasera. Funziona anche il microfono del maestro Ricky Gianco, si dovrebbe posizionare un po' meglio, secondo me, più diretto, proprio diretto di faccia. Mi si sente? Diretto. Molti ospiti con noi, aleggia sempre lo spirito dell'anagrammista Ciripeo, ma qua con noi, nella sua presenza fisica corporea, abbiamo una bellissima presenza, quello di Merry Cristo, che si autodefinisce peraltro la drag queen della profezia. Notate come dico si autodefinisce. Buonasera Merry Cristo, buonasera. Buonasera, posso dire che è un onore essere col maestro? Sì, lo sappiamo, lo Sono è per tutti noi. Grazie comunque per aver accettato il nostro invito in carta bollata che le è giunto. Merry Cristo, grazie anche a lei o a te. Possiamo darci del tu? Va bene. Grazie per la concessione, Merry Cristo. Grazie. Ho una domanda. Subito. Prego. Merry Cristo, nome e cognome o... Ottima domanda. Sono i miei nomi. Perché, sono i tuoi nomi? Sì. Alla mia famiglia piaceva molto il Natale, okay. E poi gli piaceva anche Gesù, e il mio cognome è Jesus. Merry Cristo Jesus. È una Jesus. Cosa bellissima, Jesus. È una cosa dolcissima e bellissima. Grazie Merry Cristo Jesus per averci raccontato questa storia intima e familiare. Per parlare col maestro, questo è altro. Chi volesse invece parlare con noi in diretta lo può fare scrivendoci su direttawombat.vado.li, cioè scrivete questa roba nella barra degli indirizzi del vostro browser e potete parlare di conseguenza con noi, oppure una mail a postawombat@insiberia.net. Maestro, vuoi dire qualcosa? Poi se volete parlare direttamente con me e non siete ancora in grado di farlo telepaticamente, vuol dire che uno, o non avete sentito, non siete stati attenti o non avete affatto ascoltato le puntate precedenti di questa trasmissione, oppure siete contro di noi e vi verremo a cercare. Quindi rimediate oppure scappate. Dunque, tutto abbiamo detto, mettiamo un pezzaccio di introduzione che ci servirà anche per i nostri epitomi. Allora, noi abbiamo pronti tutti gli epitomi riassunti delle scorse puntate, sono bellissimi, li abbiamo ascoltati ma non ve li possiamo mandare, perché anche oggi, invece che musica registrata, faremo un sacco di cose in diretta, dopo questa canzone registrata. Frank Zappa, We Are Not Alone, avanti tutta, maestro. Ma io voglio solo sottolineare il fatto che la proposta di musica originale, non dal vivo in radio, è una cosa bellissima. Bellissima, vogliamo veramente altissimo e prego a chi ci ascolta. Emergiamo? Sì. Emergere, l'elemento acquatico mi rimane da questa tua espressione e con ciò vorrei proporre un'anticipazione del grande tema che ci accompagnerà in questa puntata ricca di sorprese e meraviglie. Ma prima di anticipare, manteniamo un po' il nostro format consueto, anche perché, maestro, abbiamo degli ospiti meravigliosi, li vogliamo lasciare un po' decantare. E allora prima io e te vorrei che affrontassimo un argomento molto breve dei nostri soliti. Tête-à-tête. Un tête-à-tête imprevisto. Invito comunque il maestro Ricky Gianco e Merry Christmas Jesus a intervenire. Qualora... Cristo. Cristo, chiedo scusa. Grazie. Non ricapiterà. A intervenire qualora volessero. E allora maestro, questo è l'argomento di oggi. Si intitola così: un mattone nel centro della Via Lattea, interroga gli scienziati di tutto il mondo ed io, maestro, interrogherò te. A poca distanza dal centro della nostra galassia, attenzione maestro, c'è una nube di gas così densa, scura e impenetrabile da essere stata indicata dagli astronomi con il nome di The Brick. Sì, ci sono passato. Il mattone. Ora, un team di astrofisici dell'Università della Florida ha osservato all'interno della nube, rilevando qualcosa di inaspettato. Sembra infatti che all'interno di The Brick ci sia una notevole concentrazione di monossido di carbonio, CO, ghiacciato. Ghiacciato? Questa scoperta, maestro, sfida le nostre attuali comprensioni sulla formazione stellare, perché in base ai nostri modelli la presenza del carbonio ghiacciato indicherebbe che la nube sia un'area privilegiata per lo sviluppo di nuove e brillanti stelle. In realtà, maestro, però, The Brick è proprio come appare, un gigantesco ammasso di gas scuro e privo di luce stellare. Solo la radiazione infrarossa esce da questa formazione e riesce a catturare attraverso una speciale telecamera qualcosa il telescopio spaziale James Webb. La radiazione infrarossa ha anche scoperto che The Brick ha temperature più alte del previsto. Gli autori della ricerca credono infatti che questo calore anomalo potrebbe essere alla base della mancata presenza di stelle, però è un'ipotesi, chiariamolo subito maestro, ancora tutta da verificare. Ma qualcuno ha pensato a Snoop Dogg? Noi, adesso, è per questo che ti ho interrogato. Adesso finirò dicendo che gli studiosi sperano di portare nuovamente gli occhi del telescopio verso questa formazione alla ricerca di nuove scoperte sulla composizione chimica che c'è all'interno della Via Lattea, ma non serve, io vorrei dire, a loro che lo facciano, perché possono semplicemente ascoltare il maestro Ottani e Snoop Dogg, giusto? Ghiaccio bollente. Cioè, cercherò di spiegarmi, nel senso... Può essere che, cioè a me mi fa pensare come se tutto l'universo fosse no smoking area. È la zona fumatori della Via Lattea. Esatto, qualcosa del genere. Certo, è logico. Ora... È molto fumosa, nera, scura, perché sono tutti lì a farsi cannoni. In un certo qual modo. Maestro di Chijanco, apprezzo molto questa immagine. Sì, sì, sì, prego, prego, prego. Io c'è una cosa che pensavo la notasse anche il maestro. Hai detto che l'ha notato la radiazione infrarossa. Sì, ho detto questo. Solo la radiazione infrarossa riesce ad uscire praticamente da questa... Come mai non abbiamo sentito il parere delle altre radiazioni? Bassissima vero. Frequenza. Perché non siamo in campagna elettorale, quindi non c'è bisogno di par condicio. A noi è, per noi è più che sufficiente l'autorevole parere della radiazione infrarossa. Non mi sono mai piaciuto. Vabbè. Ok, quindi abbiamo questa sorta una polemica, di fetta di universo, questa fetta di galassia. Sì, esatto. Che è impenetrabile da quelli che sono anche i nostri strumenti di scandaglio. Solo il telescopio spaziale James Webb. Coso quello riesce a combinare qualcosa con i suoi super infrarossi. Sì, però in realtà tu la scorsa puntata, maestro, dicesti questa frase: laddove non arrivano le fonti, può solo arrivare la memoria. In questo caso, quale simile sentenza possiamo portare qua? Laddove non arriva il telescopio James Webb... Può arrivare la memoria. Nuovamente, certamente. E di nuovo, attenzione, sono emersi due elementi centrali in questa nostra prima discussione. L'elemento acquatico e la memoria. Sarà un caso? Coincidenze, maestro? Non esistono. No, nemmeno io credo, infatti. Benissimo, quindi abbiamo capito tutto. È l'area fumatori della galassia. È l'area fumatori della galassia, a meno che, come dire, non so, qualcuno ha controllato che non ci sia vicino un aeroporto. Ah, tipo sì, un'autostrada piena di una fipili. Una fipili, magari. una fipili galattica. Galattica. Ma quanto verrebbe una multa per chi fuma nella zona non fumatori della galassia, maestro? Allora, pensiamo alla Terra, per esempio, che questa cosa se la sta un po' arrischiando in qualche modo con tutto questo inquinamento, tutta questa CO2, tutte queste emissioni, ok? Sì. queste missioni probabilmente porteranno a una grande emissione, che è questa multa intergalattica. Saremo noi terrestri in grado di pagarla o diventeremo gli schiavi debitori a vita per ere geologiche del sistema centrale galattico? Noi non apriamo qui solo domande, diamo anche risposte, maestro. Io sono dalla parte degli esattori in questo caso. Allora anch'io. Sì? Siamo col vile principe Giovanni? Essendo anche debitori. Essendo anche debitori. È un maestro vero, maestro vero. Sì, certo, giusto, maestro è un po' più tridimensionale. Due facce della stessa medaglia. Ma così non paghiamo, maestro, vero? Così non paghiamo, o meglio, non tu direttamente, non io direttamente, ma solo i nostri figli. No, in realtà non era questo il senso. E i figli dei nostri figli. E i figli dei nostri figli. Che non fumeranno. Dei nostri figli. Mai, mai più. Dei nostri figli. A proposito di figli, caro maestro, di palo in frasca, arriviamo con una nuova domanda. Sì, ho visto che hai fatto una faccia dubbiosa, lo so, maestro. Perché cosa è successo? Che una nostra ascoltatrice ci ha mandato una nuova questione. No, ma perché io volevo sottolineare anche il fatto che di palo in frasca è l'unico proverbio che vale tanto sulla Terra quanto anche al di fuori della Terra, perché palo e frasca sarebbero anche due pianeti di altri sistemi di un altro sistema solare contiguo il nostro, ma di questo ne parleremo prossimamente. Scusateci. Interessante. Da frasca in palo? A ritorno. La frasca in palo, si maestro, mangia bene. Il maestro la sapeva anche questa. No, ma quello è l'autogrill. Molto bene, allora maestro, cosa ci ha chiesto? Cosa ti ha chiesto la nostra ascoltatrice? Io ti voglio concentrato perché la domanda io l'ho già ascoltata, non è facile. La nostra ascoltatrice sì, è un revival. Sì, ormai a questo punto lo sta davvero diventando, perché dopo le nobilissime domande che ti ha posto sugli incontri del quinto tipo, ovvero sul... Io vorrei invitarla formalmente... a partecipazione al nostro programma. Molto bello. Come ti ricorda sempre quando introduce gli audio, si trova a Londra, sì, ma allo spazio-tempo sì. Non... Questo me lo ricordavo. È più però, che abbattibile con un wormollino. Ma facile, facile. Un buchetto nero lì, che certo. Le compro anche un biglietto aereo se le fa male lo stomaco, dico, nel viaggio. Che umiltà. Che umiltà, che grandezza, che grandezza. Anche, e anche che grandezza. Anche, sì. Allora, maestro, via, dai, sentiamo, pronto? Prontissimo. Buonasera maestro e tutti gli amici ascoltatori di Radio Wombat. Qua è Caterina da Londra con un'altra domanda per il maestro. Lei in diretta, maestro, l'altra volta ha condiviso con noi ascoltatori un evento accaduto che ho trovato estremamente curioso. Ha detto di aver avuto un incontro del quinto tipo con degli extraterrestri in forma gassosa. Ecco, io le volevo chiedere, maestro, le andrebbe di condividere con noi ascoltatori qualche dettaglio di quell'evento che io trovo incredibile? Come sempre io la ringrazio anticipatamente non solo per la cortesia che sempre dimostra con noi ascoltatori, ma anche per la sua profonda conoscenza di argomenti a noi oscuri. Quindi grazie per illuminarci in questo cammino. Grazie, maestro. Allora, io vorrei ringraziare la nostra radioascoltatrice e vorrei soprattutto ringraziarla per l'enfasi che ha posto sulla parola profonda. Non avrei saputo fare di meglio. Bravissimo, bravissimo. Maestro, perché te ne la risposta comunque. Incredibile. Due persone eccellenti. Mi chiedi i dettagli, ormai ti do del tu perché comunque già ti ho invitato e tutto. Mi chiedi dettagli di un qualcosa che più di carnale è stato metafisico. Diciamo che con un certo tipo di allenamento, forse un giorno potrei riuscire a comunicare le sensazioni. potresti riuscire a comprendere. Ma la domanda adesso che ti pongo io a te, questa te la faccio io a te. Saresti pronta a guardare così nel profondo? Profondo. Sono incerto se cercare al volo degli applausi finti o applaudire io stesso, maestro. No, applaudo io stesso. Purtroppo, cara Caterina da Londra. Avanti tutta in questa mirabolante puntata, subito, allora, di palo in frasca, di frasca in palo, e adesso dove andiamo? Torniamo da Merry Cristo Jesus, direi. Sì, sì, è il nostro momento, direi. Merry Cristo, allora, prima di sentire le tue artistiche doti, come già ormai abbiamo annunciato, vorremmo chiederti, io credo, maestro, se sei d'accordo, qualcosa su di te. Il tuo passato, la tua provenienza, del tuo mirabolante nome proveniente dalla tua storia familiare, ci hai già detto, ma... Merry Cristo. Jesus. Jesus. Potete chiamarmi Merry Cristo. Sì, cioè, mi piaceva anche. Risorgi. Questa era la fine della mia vita, però... Ah, sì, certo. È già successo. Ma anche l'inizio. È un... Sì, se volete ve lo spiego, un sì, po' complicato. Sì, per favore, grazie. Grazie. Allora, innanzitutto, io ho in 6 anni... Hai 6 anni? Sen. Hai 6 anni, ok. Sì. Il maestro conosce questa unità di misura, certo, di Alfa Centauri. Certo, certo. Perfetto. E io appunto mi hanno fatto nascere... Siccome... Fate stupito comunque, li porta bene. Accidenti. Grazie. Non pensavo. Neanche lei... Non l'avrei mai detto. Altro maestro. Sì, sì, loro sanno, io no, ma... Perché, vabbè. E quindi, insomma, i miei genitori erano abbastanza ambiziosi, anche perché vengo da una famiglia comunque povero borghese, diciamo. E mi hanno fatto nascere quindi sia a Milano, perché comunque potessi essere connesso alla nightlife, per esempio, al glamour, anche al breakfast. Certo. E mi hanno fatto nascere quindi a Milano e a New York, così che potessi essere bilingue, comunque insomma in ambito commerciale. E a New York perché? Cioè se a Milano per via del breakfast, sì, e a New York invece era per... Per il lunch. Per il lunch, certo. È perfettamente sì, sensato. Esatto. Chiaro. E poi nulla, comunque l'inglese l'ho sempre parlato appunto, e però non ero... Io sono un po' insicuro, ecco. Quindi e ho... che vuol dire questa cosa in inglese? Not sure of. Ok. We're having dinner. E quindi ho 17 lauree in lingua inglese. Ah. Però in 17 atenei diversi. Sì. Interessante. Ok. Tutti da Roma in giù. Tutti da Roma. Sì, perché mi piace la vita un po', sai, quella povera. Glamour. Sì, è bohemian, bohemian. Ecco, così. Ok, ok. Ecco. E poi nulla, nella mia questo prima dell'adolescenza, ovviamente. Ma esperienze fuori dal corpo? Sì. Ok, saltuariamente o... Oddio, andavo a Troia 2-3 volte a settimana. Ok, ma invece all'interno della, del sistema solare, rimaniamo nel sistema solare? Scusami, allora, sì, ho smesso da anni circa, questo anche perché comunque questo ho perso di interesse. Sì, come? No, c'è questa cosa dei numeri incomprensibili. Non li sentite voi? No, io almeno, ma forse... Lei li sente, maestro. Forte e chiaro. Scusate l'interruzione. Io li vedo anche. No, questo... Io certo, mi scuso per l'interruzione. E vabbè, poi comunque non è importante. No, no, no, no, no, era un... Ecco, tra l'altro ho perso il filo del discorso, no, comunque insomma, sicuramente stavo parlando di qualcosa di interessante. No, io dicevo, rimaniamo all'interno dell'ambito del sistema no, solare. Sì, ah, ho smesso da un tot di anni, e questo perché comunque ha perso anche di interesse. Tra l'altro ora mi sono fatto comunque 5-6 famiglie qui, tutte in lingua inglese. Tutte in lingua inglese, sì. Beh, giustamente, sì. Da curriculum. Families. Families. Certo. Ok, ok. E una domanda, diciamo, forse un po' troppo personale. Se non se la senti rispondere, lo capisco. la missione qual è? La missione è spingere l'hip hop in alto. Pensavo più nobile io in realtà, ma va bene, mi accontento. È nobile, eh. Sì. Gente c'è morta per questa merda. Ma più in alto, cioè, qui non stiamo... Noi siamo abituati comunque alle missioni di gente, cioè, che c'ha l'agenda sulla Terra di tipo sfruttare gli uomini per estrarre i materiali che gli servono per rimpiantare l'anima. Sì, ma in alto forse lui intende, capito, verso il centro della galassia. Che ah, sta... fisicamente. Noi dobbiamo portare l'hip hop al centro della galassia così da alimentare Eratriel. Ah. Che è la nube nera di cui parlavate. Ah, e la radiazione infrarossa ce lo impedisce. In realtà per questo mi ero alterato, chiedo anche scusa. Ah, attenzione. Wow. Scusate, sì. Ok, come facciamo a sapere che non sei un impostore? Vi posso dimostrare appunto le mie abilità con appunto l'hip hop o così. E possiamo anche fare un viaggio extracorporeo congiunto se... Ok, ti credo. Ok. No, io invece no. Voglio almeno a cominciare dal primo aspetto proposto sperimentare. Voglio sentire quanto è in grado di portare in alto l'hip hop Mary Cristo Gesù. Cercherò di non portarlo troppo, appunto, per non fare subito. Comunque va fatto con calma, però ci proverò. A me sembrava credibile comunque. Anch'io sono a questo punto veramente... Resta valida la mia offerta. A me sembra incredibile. Incredibile. Beh, allora resteremo in interessatissimo ascolto. Hai bisogno di qualcosa, Mary Cristo? Allora, quindi ho bisogno di una come si chiama in italiano? Birra. Un beat, ah. Un instrumental. Yeah. E poi se magari il maestro ha voglia di dirmi una parola iniziale, quando se la sente, dopo ho fatto qualche rima, dire un'altra parola, se io riesco a sentirla, una parola cambierò iniziale. Argomento. Ogni cioè, volta. Nel senso, devo tirare fuori una parola. È una specie di sfida, maestro, sì. Che ti sta ponendo, non so se è chiaro. Cambierà argomento ogni volta a seconda della suggestione che tu fornirai attraverso la tua parola. Ma la devo dire adesso la prima parola? Me la puoi dire anche un istante prima che attacchi la base? No. Lui vuole portare in alto l'hip hop, non in basso, e quindi sì, un istante prima. Ma dimmela anche nel mezzo. Anche me nel mezzo. Ma la posso dire anche dopo, ma dilla dopo. Dilla anche ora. Io la voglio dire ora. Dilla ora. Anello. Wow. Ok. Va bene, allora, quello che sta per succedere, alzo veloce questa base, così mettiamo il beat adatto e via. Mary Cristo, Radio Wombat, lezioni universali di esistenza. Anello. Ok, sto aspettando l'attacco. Ok, c'è De Negro sulla base, sai lo sai che sa vincere ogni contest. Mi hanno detto che il maestro Tani sa anche poi assumere più forme. Te l'hanno detto che era Morgoth un tempo quando era più forte. Poi si è rincarnato in Sauros e l'hanno denominato Signore delle Ombre. Lui fa anche, dovete sapere che anche in altro è forte. Sa fare anche il maestro di D&D e ha delle fantasie contorte. Però ultimamente quella parte non è andata molto forte, è come gli anelli del potere, perché quando fai D&D hai rovinato Tolkien. Sì, davvero, sai che ti porto il livello, posso mostrare i segreti dell'universo a qualche pischello. Per tutto quello che rappo, tutto quello che c'ho nel cervello, dovrebbero spedirmi un po' di là oppure ad Azkaban, forse al terzo anello. Rinchiuso, fotti come ne resti deluso. Ti schiaccio le rime sul muso, poi volo via con Ottani sull'UFO. Sto con il maestro, è come un anello, perché il cerchio è chiuso e il rituale l'abbiamo concluso. Dammi un'altra parola che sta a base l'abuso. Questo è come Yakuza, nella Yakuza io c'ho un Uzi. E ti sparo, tu rifiuti. Ti rubo l'anello, poi lo lancio tra i rifiuti. Posso parlare dell'anello, però questa sfida sembra impari. Bravissimo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ti devo dire un'altra parola, sì. Oddio, non sono pronto. Sono io. Vai. Flamenco. Ok. Ok, col flow ti posso sballare. Sai che il flamenco lo posso ballare. A questa tipa la posso invitare. Però cadiamo giù dalle scale. Non sono molto aggraziato. E poi alla fine ero eccitato e ho smesso di esserlo. Ho visto che indossa le ballerine. Io non voglio farlo. Ballo in flamenco così in broccole argentine. Voglio andare con il maestro Ottani a ballare fino a morire. Qual era l'argomento? Me lo sono scordato perché cercavo di essere scurrile. Flamenco. Il flamenco, tac tac, fine. Sono allora, come Elio quando... Vai, te dilla te, io non ti, ti preoccupare, vado avanti spina. Come spina. Parli della spina e della spilla. Entrambe possono bucare, però io posso parlare pure della birra. E invece posso pure profumare questa base con la voce come il fiore della mirra. E un'altra, ripeti la parola, me la scordo. Spina. La spina nel fianco, che è una cosa che io non sopporto. Una spina nel fianco avvolta una persona che ti mostra un altro volto. E il maestro Attani sa guardare il cuore, tu sai solo vedere che è corrotto. Il maestro Ottani non puoi fotterlo, vai in alto in un elicottero. Vedi il maestro Ottani in palestra che fa leva sulla gamba e sembra un fenicottero. Neanche se gli Anunnaki complottano. Maestro Ottani con le donne e con gli alieni, dubito che fottano. Fine. Se volete, sembro Salvini al papete. Applaudite che richiedete. Faccio l'ultima e dico che il maestro Tane è come l'acqua talete. L'acqua lete. L'acqua lete. Tali. Ma con la filosofia io sono l'erede. Wow. Wow. Wow. Possiamo continuare? No, bellissimo. Grande, grandissimo. Merry Christmas. Grazie, grandissimo. Sono grandissimo. Molto emozionato. Ma io ti rinviteremo su una base. Potrei continuare anche per sempre. Nel senso. No, invece no, come perché fai? Vogliamo dire un sacco di cose e dopo lo rinviteremo. Non è la prima, né l'ultima, né la penultima che farà, anche se questa è proprio impossibile che lo sia la penultima. Grande maestro, grande Merry Cristo. Mm-hmm. Maestro Ricky Gianco invece... Allora, ora dica. C'è un pronto cambio base per te, eh? Non c'è intervallo qua, è tutto scintillante perché noi vogliamo parlare di tanti argomenti. Allora, cosa sta per succedere? Cambio base, ti metto quella che ti piace, lo so che ti piace. Ti è piaciuta l'altra sono volta? Sono d'accordo con tutto quello che arriva. Senti questa, senti questa. Siamo in sintonia. Allora, noi abbiamo invitato il maestro Ricky Gianco esplicitamente, come avete sentito qualche puntata fa, a discorrere di un argomento che però, essendo troppo lungo, profondo per essere contenuto nello spazio di un piccolo bit. Quantum bit. Rimanderemo, quindi praticamente nulla vi diremo dell'argomento che ci ha, in realtà però maestro Ricky Gianco diciamo questo, che ci ha un po' attanagliato, perché quando abbiamo cercato sulla mafia kazariana, eccolo, non abbiamo trovato veramente quasi nulla, le fonti sono oscurate, velate, scarseggiano tantissimo, è difficilissimo, non è possibile avere informazioni in ambito Italia. Di fatto gli inglesi hanno iniziato a scavare e a trovare le prime info. Gli americani fanno eco. Da noi qui è difficile, le coperte sono spesse. Tu, maestro Ricky Gianco, stai seguendo le vicende dal mondo anglofono attorno all'argomento? Anche, sì. Diversi canalizzatori, giornalisti, dottori, dottoresse ne parlano, anche perché loro vengono sconvolti in prima persona. Noi abbiamo il Vaticano. Abbiamo già detto tante anticipazioni. Maestro Ricky Gianco, a una prossima puntata, sì, sull'argomento specifico. Vogliamo andare a fondo, nel profondo. È davvero difficilissimo trovare qualcosa. Noi abbiamo la possibilità di interpellarti. Vogliamo assolutamente farlo su questo. Grazie. Grazie a te per la concessione. Oggi però un ritorno alle origini, albeggia qui su Radio Wombat oggi, albeggia perché, allora, in questi ultimi 15-20 minuti di trasmissione noi stiamo per fare qualche cosa che abbiamo fatto nella nostra prima, credo, sì, una delle prime puntate, sì. A parte quella zero, la pilota, insomma. Noi abbiamo sperimentato, lo racconto per chi non ci ha ascoltato, quei pochi folli che non ci hanno ascoltato, abbiamo sperimentato la memoria dell'acqua. E adesso è quello che torneremo a fare qui con voi in diretta su Radio Wombat, su Lezioni Universali di Esistenza, col maestro Ricky Gianco, col maestro Ottani, con Merry Cristo, con lo spirito che aleggia del anagrammista Giulio Ciripeo, avanti tutta per la memoria dell'acqua. Però maestro Ricky Gianco, che cos'è questa roba? Cioè di cosa stiamo parlando? Parliamo di fondamentalmente magia. Allora, magia... che abbiamo a disposizione quotidianamente. Questo termine. A me sì, è strano che non voi confini, proprio usiate questi termini in apertura. Non possiamo spiegarlo. Non è magia. È solo magia. Di più, certo, chiaro, non poniamo limiti. Io la chiamerei scienza, noi abbiamo sperimentato. No. Troppo riduttivo, forse. Ah. Non ci basta. No, basta confini. No, allora, parliamo di questa magia. Che cos'è la questione? Questa magia è più che altro non arriviamo a comprenderla perché non vibriamo abbastanza alto. Chiedo una domanda legittima e alla quale mi permetto di rispondere sì. Cioè, sì effettivamente sì, non vibriamo abbastanza alto. Esatto. Sì. Non siamo liberi, non vogliamo capirla, non la vogliamo. Anche se la vediamo, ce la spiegano, non è chiara come funziona. In un nostro incontro notturno nel mondo dei sogni, maestro Ricky Gianco, tu mi hai parlato esplicitamente di quarto stadio dell'acqua. Bello. Che vuol dire questa cosa incomprensibile che mi è arrivata da te in sogno? Bellissima questa cosa. Sono stato io, sì. Sì, è vero. Li conosciamo tutti, no? Liquido, gassoso, solido. Il quarto è informato. L'acqua ha memoria. L'acqua registra, l'acqua rimanda, l'acqua è viva, è un essere vivente e consenziente. È consenziente? È consenziente. Sì, ti dice sempre sì. Merry Cristo, rispengo il microfono. Bella questa, no, bella, allora... fighissima. Ma cosa dicevamo? Allora, racconto che cosa è successo, maestro Ricky Gianco. Racconto ai nostri ascoltatori che cosa è successo. Noi abbiamo fatto questa cosa che stiamo per fare adesso di nuovo. Noi nella prima puntata abbiamo sperimentato con termini e motti di odio verso una bottiglia con del riso e dell'acqua all'interno, che cosa succedeva a quella bottiglia, e a un'altra abbiamo dato invece elogi e complimenti e abbiamo visto poi cosa sarebbe successo. Quello che stiamo prestandoci a fare è farlo di nuovo adesso. Wow. Poco fa, mentre parlavamo salendo queste scale che ci conducono in questo empireubo, c'era una persona che ci ha raccontato che questa cosa l'ha fatta sulle piante e che una pianta l'ha presa a male parole, un'altra con ottimi termini l'ha accarezzata di dolcezze e una è vissuta, l'altra è morta. Quello che noi vi stiamo raccontando è che tutto questo è effettivamente possibile per il quarto stadio della memoria, il quarto stato dell'acqua, che è quello come detto, dell'informazione. Informata, una memoria, registra, sì. Ma questa cosa è una proprietà intrinseca della combinazione idrogeno, sì? Non scenderei nello specifico perché porterebbe più confusione. In realtà l'esperienza diretta restituisce chiarezza, non va spiegata a parole. Raccontiamo quello che facciamo. Io voglio solo portare una tesi a sostegno, sì, di questa visione di alcuni, diciamo, scienziati o, sì, presunti tali che che vedono l'intero pianeta Terra, l'intero sistema Terra come un unico grande essere vivente che è l'acqua. Ah. Cioè, l'unico essere vivente della Terra sarebbe l'elemento acqua. Ah. E infatti il nostro corpo è composto al 70% di acqua, quindi noi diciamo che per l'arco della nostra vita prendiamo in prestito questa vitalità dell'acqua e la abitiamo. Ma ora scusate, io rischio di essere profano, ma i termini che danno vita ed esistenza non sono nascere, crescere, riprodursi, morire, quelli soliti che abbiamo, no? E il sole? E l'acqua? Il vento? No? C'è anche il vento. chissà, chissà, chissà. Perfetto. Indaghiamo. Io avrei una domanda. Sì, a chi la stai rivolgendo? Non lo so. Di forse... sicuro non a me, ma... ma in realtà ai nostri ascoltatori. Sì, prego. Diciamo a tutti, ma specialmente anche al maestro. Anche a te stesso, forse. Sicuramente. Ma... quindi l'acqua contenuta in diversi recipienti è capace di discriminare a chi viene rivolto l'insulto anche quando è a portata di udito? Quindi non si quindi no, non è un'ottima rimane... domanda. No, io l'ho capita questa domanda, rispondo io, posso, maestro? Certo. Noi abbiamo fatto questa cosa, sì, la risposta è sì. Però nel dubbio, noi per fare un esperimento che non fosse confuso da questa eventualità, quando abbiamo insultato la prima bottiglia, abbiamo messo l'altra fuori dalla stanza. È quello che stiamo per fare ancora adesso. Quando abbiamo elogiato l'altra bottiglia, la bottiglia insultata è stata messa fuori dalla stanza affinché non fosse in qualche modo conturbata, almeno dalle onde, diciamo, sonore del nostro insulto. Che per quanto possiamo dire... Sì, maestro Ricky Gianco? Sì, gli occhi hanno la loro funzione. Si parlava prima col maestro che quando gli occhi si posano sulle particelle di luce, queste cambiano comportamento. Cioè da onda diventano punti. E quindi se ti rivolgi con gli occhi puntati al recipiente d'acqua, è quello il target. E l'acqua lo sente. L'acqua lo sa. L'acqua lo sa. L'acqua lo sa. Grazie. La risposta dei maestri, quindi, è bellissima, bravissimi maestri. Per chi volesse criticare, è tutto scientifico. Era per questo che ho fatto la domanda. Provare per credere, far capire tutto. Quanto si è attenti al processo, ecco, quando c'è il maestro. E quindi io direi che è, allora, a questo punto il momento di farlo. Allora, facciamo questa cosa. Cambiamo base. Mettiamo la base che usiamo per gli esperimenti e procediamo. Abbiamo 10-15 addirittura minuti per concludere questa puntata col bellissimo esperimento della memoria dell'acqua. Avanti tutta. Oh yeah. Metto Sexy Planet. Il maestro deve pisciare. Vai, vai, maestro, vai. Acqua. A proposito di... eccoci all'acqua. Eccoci all'acqua. Diventa il 65% del corpo di base. In realtà, perderà il 25% in realtà, del proprio peso. Nella massa il 70%, ma l'acqua presente nei nostri corpi forse sfiora il 90%. Come mai lo sfiora? Perché non ne sappiamo un cazzo ancora. Così poco, così poco. Allora, maestro Ricky Gianco, allora Merry Cristo, godetevi questa base, Sexy Planet. E io vado ad avvicinare tutto il materiale. Molto bene, è tutto qui davanti a me, spero che sentiate il tintinnio. Allora, ci sono molte persone in questa stanza, possono tutte controllare che quanto sta avvenendo è assolutamente vero. Questa è scienza, scienza alla radio, prego, prego per tutti di nuovo. Allora, cosa sto tirando fuori? 3 bottiglie appena donateci dagli eredi del signor S. Lunga, 3 bottiglie nuove, intonse, di vetro, trasparenti, lisce. Si vede attraverso, sono nuove, notate, e ben sigillate, acquistate. Sono confermo. 3. Nella prima volta, la prima volta l'abbiamo fatto con 2 bottiglie questo esperimento. Questa volta lo facciamo con 3 perché abbiamo pensato di aggiungere complessità ed aggiungere l'elemento di controllo, ovvero la bottiglia neutra, la bottiglia alla quale nulla accadrà questa volta. Che bellezza. Molto bene, quindi io ho bisogno di aiuto. Questi sono dei fogli. Questi li porgo al maestro Ricky Gianco, magari. Sono 3 fogli, dovrebbe piegare ciascuno a metà. Eccolo. E un pennarello nero. Eccolo qua. Dopo averli piegati tutti e 3 a metà, in una a metà, davanti e dietro, esatto, tutti e 3, ci dovrebbe scrivere in uno odio, nell'altro amore e il terzo lasciarlo bianco, per l'appunto. Dopodiché porgo... no, che ho combinato qua? Base, musica... tutto rotto. Ok. Dopodiché porgo invece a Merry Cristo lo scotch. Va al volo. Gli chiederei di prendere dei pezzi di scotch e di apporre. Anzi, nel frattempo, da tutte e 2 le parti, perfetto. Bisognerebbe svuotare un po' di bottiglia qua. Quella cosa lì è vuota? Controlli un attimo. No. È piena o vuota? Piena. Maestro, allora il tuo compito sarebbe andare a svuotare questa cosa a questo punto. Vado. Cioè dovresti svuotare un po' tutte e tre le bottiglie. Vado. Allo stesso grado. Aprirle e svuotarle un pochino, per favore, tutte e tre. Ah no, cioè, attenzione. Lo spirito dell'anagrammista Giulio Ciripeo VII afferra le nostre bottiglie e va. Ha poteri fisici. Ma deve afferrare anche non le abbiamo... altre. L'anagrammista ne ha preso solo una. L'anagrammista ha poteri fisici, maestro. Non abbiamo mai grazie dubitato. Grazie all'anagrammista. Incredibile, incredibile. Tre sono. Sono tre? Tre. Tre. Tre. C'è una storia legata al tre. Al tre, al neutro. Noi vanno abbiamo... svuotate, capito, per metterci il riso del tutte primo tre. Numero magico. È bellissima questa cosa. Abbiamo le due parti. Una parte malvagia. Una parte buona. E una che se ne fotte. E una nel mezzo che se ne fotte. Se sei nel mezzo e te ne fotti, hai vinto. La tua frequenza si alza. Un quarto in meno. Neutro, neutro, neutro. Nel frattempo fruzzico, perché sto aprendo una nuova confezione di riso. Una nuova confezione di riso. È nuova anche questa, in tonsa. Non ci sono elementi contaminanti. Abbiamo tre bottiglie con acqua nuova. Della stessa marca, ovviamente. Cos'è acqua nuova? No, nel senso, no, nessuno mai usata. Mai usata. Nessuno ci ha fatto ancora il bagno dentro. Nel senso che non è stata bevuta, non è riempita dal rubinetto, non è acqua che ha subito una qualche possibile contaminazione pura, rispetto pura, alla pura, pura, pura, pura di fonte. Il riso, che anche questo è nuovo e lo sto aprendo adesso. Puro, anche esso. Maestro, ce la fai a aprirlo? Certo. Se no faccio casino. Va aperto il riso. Le scritte, maestro Ricky Gianco, i tre cartellini? Molto bene. Adesso torneranno le bottiglie, grazie allo spirito dell'anagrammista. E saranno fornite. Lo spirito dell'anagrammista che vince la gravità e tutte le sue forme di aggregazione. Straordinario, comunque. L'anagrammista ci aiuta con questo esperimento, è una cosa bellissima. Ci sta mettendo tantissimo l'anagrammista a svuotare tre bottiglie. No, è andato perché andavo lontano, non sa. D'altronde è uno spirito, non può sapere tutto. In forma eterea. Io non so dove è andato, tra l'altro. Si sarà perso. Dove è andato l'anagrammista? L'anagrammista. Potremmo vedere delle bottiglie andare a giro. Esatto. Che fluttuano. Non perché ha sbagliato strada, dove è finito? Credo che sia andato lungo il cammino dell'oblio. Potrebbe aver raggiunto già il fiume Lete a questo punto. Oh, eccolo qua, l'anagrammista. Ma è andato lontano l'anagrammista. Molto bene. Grazie anagrammista, queste bottiglie fluttuanti, che spettacolo. Non potete vederle, metteremo una webcam per le prossime puntate. Non è vero. No, non succederà. Grazie. Allora, ci siamo. Adesso dobbiamo apporre le etichette, allora, sì, sulle bottiglie per distinguerle all'interno dell'esperimento. Quindi sì, sì. Ripetiamo, una sarà effigiata dell'epiteto amore, l'altra sarà effigiata dell'epiteto odio e l'altra ancora sarà effigiata di alcun epiteto. Esattamente. Ecco le bottiglie. Merry Cristo che procede ad attaccare i cartelli. E adesso sulle bottiglie. Il gioco è utilizzare solo parole che iniziano con la lettera E. Ebbene. Ebbene. Ecco. Ecco. Essere. No. No, è un troiaio. Anche quando ridi. Fascialo bene. Quando ridi devi fare non Pensavo andasse bene così, ho sbagliato. No, deve leggere bene. Un po' più alto, deve leggere. Deve leggere. Sia chiaro, il messaggio che sia chiaro. Scusate, è la prima volta che faccio questo esperimento. No, siamo tutti emozionati perché noi vi raccontiamo, siccome l'abbiamo già detto in diretta, nel mentre in cui attacchiamo i cartellini, che cosa è successo la prima volta. Cioè, dopo che noi abbiamo fatto questo che stiamo per ripetere adesso, abbiamo messo le bottiglie a decantare per un mese, cosa che ripeteremo adesso, in un posto chiuso, al buio, senza guardarle, né toccarle, né muoverle, né illuminarle per 30 giorni. Fra 30 giorni, fra due puntate esattamente, sì, le riprenderemo e guarderemo che cosa è accaduto. Allora, cosa accade dopo un mese? Che la bottiglia col cartello con scritto odio all'interno il riso aveva subito una corruzione chiara, era quasi bollito, si erano persi dei pezzettini, era decomposto, basse frequenze, si era rincicciunito, si era perso pezzettini, buio, buio, e l'acqua buio. Sicuramente era torbida, nell'altro stagnante, il riso era conservato ancora quasi come se fosse nuovo, come appena messo, cioè nel senso con questa forma snella, sottile, non corrotto, alte frequenze, vibriamo, era chiarissimo alto. Noi possediamo delle foto anche di tutto questo, possiamo testimoniare su Science tutto quanto. E comunque se me lo chiedete io dirò sempre che questa cosa è successa, anche sotto tortura. Testimonierò anch'io il vero. Grazie maestro Ricky Gianco. Grazie maestro. Molto bene, nel frattempo io procedo a mettere il riso. Sì. Allora, è pronta la bottiglia con scritto amore? Volevo raccontarvi una cosa. Io sto mettendo il riso. Informando l'acqua, c'è un piccolo esperimento da fare in casa, un piccolo recipiente con poca acqua. E se fate questo esperimento, ne avete risultati immediati. In pratica, prendendo questa boccettina d'acqua, facendo attenzione a quest'acqua e mandando amori vibrazioni alte, congelandola si cristallizzerà rimandandovi dei fiori esagonali. Ma dai, di frequenze altissime, cose bellissime, ma vanno osservati al microscopio per essere percepiti. E non lo so, non mi è riuscito il primo esperimento, riproverò. Straordinario comunque, cioè la forma di... quando si cristallizza l'acqua rende il suo messaggio, a parte l'esperimento che stiamo facendo, che certo, il riso rende il messaggio dell'acqua e della perché comunque è un terzo elemento. L'acqua cristallizzata ci restituisce la vibrazione che ha ricevuto. Interessante questo. Davvero molto. Per un prossimo esperimento, fra l'altro. Da provare, da provare. Cioè, ci sono dei video da guardare online. Su YouTube? No, c'è il sito di questa neozelandese che ha fatto, che ha seguito gli esperimenti di amore. Bello. Ed è favoloso, le cose bellissime. L'acqua, la memoria. Procediamo, che via. Sia consapevole. Quindi lei, diciamo, ha fatto diversi esperimenti fatto in questo senso. L'esperimento noi ci accingiamo a fare entra, il nostro. Entra dentro l'amore. Esatto, ora. Il riso sta entrando nell'acqua, nella prima bottiglia. Ci accingiamo a preparare il nostro. Ok, all'interno okay, di maestro, quella... va bene? Sì, sì, sì, sì, si vede, testimoni, si vede. Va bene, va bene. Riso, ok. Dentro l'amore. Abbastanza netto. Fatto un troiaio, va bene, dopo si spazza. E andiamo a chiudere la prima bottiglia. Cerchiamo di mettere il secondo riso nella seconda bottiglia. A questo punto pronta. Super neutro. Poi c'è il super neutro per ultimo. Elemento di novità all'interno di questo nuovo esperimento, come abbiamo detto. Sì, sì. E quindi sì, ma perché l'importanza dell'elemento di controllo, noi supponiamo quindi cosa ci aspettiamo? Che l'elemento neutro abbia una reazione mediana fra le due che osserveremo, giusto? O reazione alcuna o simile a una delle due in realtà. Cioè, se non è mai stato usato, dovremmo solo aspettarci forse che l'elemento di controllo prende la reazione che si aspetta il maestro Ottani. Di vibrazione più alta. Quindi non è detto che... Contagiato. Forse dovremmo, maestro, mi dica lei, mi scusi, non voglio essere... No. Dovremmo rifarlo un'altra volta per vedere se l'elemento di controllo è quello. No, che vuol dire? Non ho capito. 3 volte 3. Grazie. Ha senso sta cosa. No, nel molto senso bene. Che non sappiamo la condizione dell'elemento di controllo. Seconda bottiglia, per favore, grazie. E via con la terza. Mettiamo il riso anche dentro alla bottiglia neutra. È il riso della dinastia Xiamyang. Quello. Xiamyang, esattamente, sì. La quarta dinastia cinese. Ottimo. Dopo quella socialista. Tutto bene? C'è stata un'interferenza, credo. Non so, Radio China FM è entrato un attimo. Sì, è entrata... Allora. C'è stata un'interferenza. Oh my, I saw. come Radio Maria, c'è una tendenza. Allora. Non fare l'accento, ok? Ok, adesso, perfetto, ci dovremmo essere. Chiedo a questo punto al maestro Ricky Gianco di controllare se l'altezza del riso, più o meno, le bottiglie sono correttamente chiuse. Se tutto quanto corrisponde adeguatamente a quanto ci aspettiamo. Corrisponde, quindi io indierò. Chiedo anche a Mary Cristo là accanto di fare la stessa verifica. Possiamo inviare. Chiedo anche allo un spirito alle di Giulio Ciripeo VII di fare lo stesso. Siete d'accordo? Inviamo un messaggio alle bottiglie. Neutro, neutro. Amore, amore, odio, odio. Sì, allora, quello così che sta... da amplificare. Allora, no, facciamo questa cosa adesso, sì? Ricky Gianco. Sì. Aspettiamo il controllo, un attimo che è importante. Notai. I notai, un attimo, aspettiamoli. È davvero importante questo momento di controllo. Alziamo la base nel momento. Annuiscono i notai? Sì, forse va bene. Non capisco se odio ha più riso. Se odio ha più riso, vabbè, un pizzico di riso in più. Li vogliamo aggiungere agli altri? Non è un problema. Controlliamo. Perfetto. No, ma in generale, perfetto. Dicevo, non ora. Tutto sigillato, chiuso, controfirmato e controbollato. Tappi sono ben chiusi? Ben saldi? Sì, sì. Molto bene. Allora chiedo allo spirito di Giulio Ciripeo VII di togliere tutte le bottiglie tranne quella con l'odio dalla stanza, di portarle fuori volando. E noi ci teniamo la bottiglia con l'odio e la mettiamo al centro di questo tavolone. Chiusa, chiusa. Molto bene, allora è chiusa, un attimino aspettiamo che si allontanino adeguatamente le altre bottiglie, che non assistano allo scempio che sta per subire questa povera bottiglia d'acqua. Buono, buono. Che cazzo va tutte le volte Giulio Ciripeo? Sicuramente sono, non sento, non ha cambiato edificio. Ok. Chiudere bene, per favore, è davvero una cosa scientifica, non ci possono essere contaminazioni di sorta in questo momento. Grazie. Allora, via la base, adesso per, non so, qualche secondo, se urlate allontanatevi dai microfoni, mi raccomando, procediamo tutti e quattro insieme, e anche voi da casa, con lo spirito, con noi, ad insultare la bottiglia con su scritto odio. Controlliamo che sia quella, vero? Sì, è sì, è quella con scritto odio. Lo è. Non ci vogliono termini deboli, mi raccomando. Non termini deboli. A parte tu, Mary Cristo. Va bene? Via. Acqua torbida, schifosa. Ignobile. Acqua limacciosa. Era sull'isola di Jeffrey Epstein quest'anno. Sì, nessuno ti vuole. Sei un'acqua squallida. Tu sei un pezzo di torbida, merda, lo devi capire, acqua del cazzo. Sudicia, lurida, vergognosa acqua. Ti odiamo, noi ti odiamo. Ti odiamo, sì, ecco, no, sì, ti odiamo. Sei terribile, ti odiamo. Comunista. Squallida, cattivissima acqua. Terribile se acqua. Se nel mondo esistesse un po' di bene, che non saresti. Maledetta acqua, quella. Ti stai corrompendo l'esperimento di alla più. Di così. Ma chi l'ha chiamata acqua, maledetta questa roba? Questa non è acqua. Non è acqua. Non è acqua, acqua, no. Non si merita nemmeno di... Bravo, questa, merda. Questa la cago dal culo. Molto ragazzi. Bene, molto bene. Grazie a questo punto a tutti. Ora chiederei al gentilissimo spirito di Giulio Ciripeo di procedere a portare via la bottiglia con scritto odio, tenerla a sé stante là fuori e avvicinare la bottiglia con scritto amore. Alziamo la base. Ed eccoci qua. Molto bene. Adesso quello che sta per succedere è che procederemo analogamente con questa bottiglia. Allora, pronti? Pronti. Via. Pronto. Bella acqua. Grazie. Rinfrescante. Dolce acqua. Vorrei stare tra le tue braccia. Freschissima, ammirevole. Desiderabile acqua. Grazie. Sei meravigliosa, ti sogno. Ti guarderei per ora. Sei la bellezza fatta. Grazie, acqua. La miglior acqua. Mai vista un'acqua questa così bella. Questa acqua, signori miei. Io ti amo, acqua. Io ti amo, acqua. Monumentale. Dissetante al massimo. Grazie. Uno spettacolo della natura. Desiderabile più di qualsiasi altra cosa. Se il desiderio avesse forma, grazie, l'acqua davvero, la potrebbe grazie. Prendere. Noi ti amiamo molto, acqua. Grazie davvero. A pensare. Sei ti straordinaria, amiamo. Stupenda. Grazie. Delicatissima, grazie. Davvero grazie. Molto bene. Adesso è importante portare via anche questa bottiglia. Perché ho dei pensieri intrusivi. Sì, facciamolo subito. Non corrompiamo l'esperimento. Alta vibrazione. Ok, e così sia. E questo è quanto è avvenuto. Noi abbiamo proceduto con l'esperimento. Alla bottiglia neutra, ovviamente, non capiterà niente di tutto questo. No, la bottiglia neutra non subirà nessun trattamento. Semplicemente del riso, non avrà parole da noi, né di lodio, né di lode, né di infamia. Questo è quanto. Campione di controllo. Ci vediamo fra un mese per vedere che cosa sarà capitato alle bottiglie con l'acqua, giusto? E così tenetevi sia. In vita. Tenetevi in vita perché vi aspettiamo, davvero, vi aspettiamo. Molto bene, molte grazie anche. Dobbiamo dire qualcos'altro sulla memoria dell'acqua, a parte aspettare la meraviglia di questo esperimento che abbiamo appena compiuto e che rimarrà nella storia. Ma in realtà vorrei aggiungere l'esperienza. Sì, fare esperienza, bisogna provarci, bisogna cristallizzarla dopo averla informata positivamente, negativamente, vedere che cosa fa, che cosa ci restituisce. Abbiate memoria della memoria dell'acqua. Maestro Grigianco, ma è possibile usarla a scopi malvagi questa cosa? Cioè... Certo, lo fanno su di noi. Noi siamo acqua. Noi vibriamo. L'acqua risponde alle frequenze. Ma l'acqua che abbiamo noi risponde alle frequenze che ci arrivano da fuori. Ma secondo te, maestro Rikijanko, sono dei soggetti che agiscono in modo malvagio operando su... Multinazionali, banche, assicurazioni, hanno tentacoli ovunque. Lo sanno, loro lo sanno, noi no. Loro lo sanno, noi non lo sappiamo. Quindi facendo ricerca, esperienza, forse lo sappiamo. Forse arriveremo a scoprire. Noi d'altronde su di noi, perché se poi ti mando amore, tu vibri bene, ti senti meglio. E il riso non corrompe l'acqua. Il riso l'acqua. Non finisce più. E se l'acqua ha memoria? L'acqua ha memoria. Dobbiamo stare attenti. Questa, ce l'ha. Io vorrei avvertire riguardo, non fatelo con leggerezza. Perché l'acqua ricorda ciò che fate. Sì, in effetti sì. Tipo, è proprio quello che stiamo... Sì? Pisciare in uno stagno, cosa del genere. Esame. Consapevolezza. Timore la zia, non lo fare. Non lo fare. Non pisciate più negli stagni. La mafia dell'acqua non è roba con cui scherzarci. Una cosa è se c'è il maestro Ottani. Perché sennò lo replicano... Sì, a casa. Non in sicurezza. Non lo devono fare. Molto bene, grazie a tutti per questo bellissimo esperimento. Grazie. Davvero, noi stiamo facendo dei passi in avanti... Per l'umanità tutta, è comunque qui, giusto? E voi sì. A farvi le tisanine a casa. Passi da giganti. Comunque ringraziatele almeno quelle tisanine, se proprio, proprio. Sì. No, stavo dicendo, ma perché saresti pronto, vero? Perché io ci avrei un altro beat nel frammentare qua per lasciare i nostri ascoltatori in bellezza con questa puntata. Spappato. Allora, intanto però una cosa, Merry Cristo, noi abbiamo sentito la tua storia, stiamo per sentire nuovamente la tua ugula, vogliamo sentire un tuo argomento, quindi ti rinvitiamo adesso qua davanti a tutti ufficialmente nella prossima puntata a portarci un qualche topic meraviglioso da discorrere con noi, i maestri qua presenti. È ufficiale. Assolutamente. Molto bene. Allora, di cosa ci delizi nel darci arrivederci? Allora, se volete un'altra dimostrazione vocalica, possiamo fare nello stesso modo, oppure vi parlo, non lo so, possiamo fare sempre con le parole, oppure poi No, con i rutti la prossima volta, teniamoci alle parole secondo me per questa... Ok, va bene, se no potevi usare un generatore di parole che trovi comodamente su internet se non ti vuoi scomodare. Buono. Con le parole nel senso, non avevo capito, scusami, con le parole al tuo pensavo. Sì, generatore di parole, cosa scrivo? Ecco. Generatore di parole casuali. Sti cazzi. Anche lei è un generatore di parole casuali. Perfetto. Molto bene. Allora, qua chiede il numero di parole. Quante ne vuoi? Diamoci un numero. 6. Vuoi il dizionario completo? Me ne dici uno ogni tanto. Vuoi il dizionario completo? Non so se i nostri... Se no puoi scegliere tipo dizionario per bambini. Cibo, animali, colori, corpo umano, educazione, famiglia, figure geometriche. Mi piacciono i colori. Colori? Vuoi colori? Colori vi sia. 6 colori, vai. Pronto? Vai. Via. Non so che generatore mi ha trovato. Non so che cazzo succede ora. Via. Oh, e intanto noi vi salutiamo, con questa meraviglia di Merry Christo Jesus. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, fra due mercoledì qui, ancora col maestro Ricky Gianco, ancora con Merry Christo, ovviamente con me, il maestro Centottani. Onorato. Assolutamente. Ah, mi sono scordato dell'anagrammista. Vai, recuperiamo la prossima, ha fatto tanto per noi in questa. Avanti. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Ricordate di ringraziare le tisane. Pronto? Sì. Viola. Ok, questa è grave, non so proprio come reppare ora. Il suo colore preferito è il rosso, per questo denigro la viola. Questa era pesante, dammi un altro colore. Arancione. Lo stavo pensando, ho un'altra evoluzione, come un Pokémon che posso diventare di una forma migliore. È come se avessi trovato il colore dei capelli di Rita Pavone. Era argentato. Appunto arancione. Argentato, va a mio favore. Posso sparare un proiettile fino a bucare il tuo cuore e l'onore. Argentato, proiettato nel cielo fino a quando mi vede e sembro la luna per un lupo mannaro. Rosa. Questa era bella, l'alba che è rosea. Si innalza sopra ogni cosa, illumina anche una prosa. Ho visto la valle perduta, era anche meravigliosa. Non vedo dove viaggia l'alba, vedo dove si posa. Blu. Io mi connetto col Bluetooth, sì sì lo ammetto. Blu, perché c'ho il cianuro dentro al cassetto. Lo metto dentro al proiettile, sicuro che ce lo metto. Questa, grigio. Bella, grigio, dammi rispetto. Sai che scendo con Andreottani, siamo al parchetto. Sto pure con un altro, non so se lo conoscete, provo, facciamo un terzetto. Il colore era grigio, come gli alieni che pensa il maestro. Yo. La razza grigia. Io poi vi saluto, ne faccio un'altra, così poi chiudo. All'ascoltatrice che scriva Dottani e pensa che non sia nessuno. Grazie al fatto che c'è un allievo, il maestro è qualcuno. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked.